Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Carissimi ascoltatori, eccoci qui in questo venerdì 24 luglio. Siamo... È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! E che venerdì! Caro Leonardo Manera, e quale venerdì! È l'ultimo giorno oggi di tutto. Cioè, non è che finisce il mondo. Diciamo che dopo la per fine. Noi... qui fine. Non verremo più per un bel pezzo. Tu forse hai rinnovato sto contratto? No, non ho sentito nessuno. Non ho sentito Alessandra Scaglioni. Non ho sentito il direttore del personale. Quindi sono galleggio nel nulla, in una nuvola di sospensione. E diciamo. Adesso come facciamo? È agosto, qui vanno via tutti. Quasi fine luglio, agosto. E cosa succede a settembre quando riprendiamo? Succede che non avendo il contratto vi priverete con dispiacere della mia presenza, immagino. Ecco, tutti. Dispiacere. Milan, bella la vita, due settimane in vacanza. Bella la vita. Riprenderemo il 31 agosto, tipo una roba del genere. Per cui, insomma, ma d'altronde dovete smaltire le ferie arretrate, barabarabara, cosa che conoscono tutti per problemi legati alle vicende note. Va bene, signori, siamo con voi fino alle 11 con Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi in redazione e l'Alpino in regia. E allora partiamo per l'ultima carrellata. Enthusiasm about the future. Allora, cari ascoltatori, noi vi vogliamo lasciare con tante tematiche anche oggi e vogliamo tornare, non che sia da monito per le vacanze per i tanti genitori, ragazzi, però è un tema a noi caro che dobbiamo sempre approfondire con persone competenti che ci possono dare degli strumenti per capire, vale a dire il tema delle droghe, il tema dei nostri adolescenti, dei nostri ragazzi, delle famiglie, delle dipendenze. Io da tanti anni conosco uno dei massimi esperti in tema, si tratta di Riccardo Gatti, che dirige a Milano il Dipartimento Interaziendale Dipendenze per l'azienda Santi Paolo e Carlo. Buongiorno Riccardo e bentrovato. Buongiorno a voi. Allora, perché qualche strumento bisogna darlo, di fronte alla situazione in cui le famiglie si trovano sempre disorientate, eccetera. Allora, Riccardo Gatti, io lo ricordo da anni, ti invitiamo, poi ci diamo del tu e possiamo farlo per una volta. Da anni ha cercato di far capire questo concetto, e cioè che le droghe ormai rispondono alle logiche di mercato, proprio di marketing, di diffusione capillare secondo le logiche della domanda e dell'offerta. Ora, a che punto siamo con le droghe, i nostri figli e i genitori, Riccardo? Siamo a un punto abbastanza complicato, nel senso che non è che poi questo concetto sia stato molto recepito, si capisce anche perché ci mancano le parole, no? Quando parliamo di queste cose, ad esempio, parliamo normalmente di dipendenze, i servizi si chiamano servizi dipendenze, quelli di cura. In realtà siamo di fronte a fenomeni molto più complessi che cerchiamo di volta in volta di collocare, no? Una volta è nel pacchetto della droga, una volta è in una situazione particolarmente incresciosa che può incorrere a qualcuno, un'altra volta è la movida. In generale poi collochiamo la cosa nel mondo giovanile. In realtà non è propriamente così, nel senso che è un fenomeno molto trasversale che ormai parte dalle droghe intese come droghe illecite e arriva fino ai farmaci, sì, usati però in un modo particolare. Quindi cioè, è come se ci sia una parte della popolazione che è abbastanza importante, che ha bisogno per vivere, per fare cose, diciamo, quotidiane, poi alla fine che non sono cose eclatanti, di alterarsi o di doparsi con delle sostanze che però sono molto diverse. All'interno di questa situazione, da una parte si sta compiendo la transizione per quanto riguarda la parte illecita, diciamo così, dal naturale al chimico, quindi con la possibilità di avere a disposizione sempre molecole diverse, ma anche si sta delineando qualche cosa che io chiamo un po' come droghe master chef, cioè che in qualche modo chi ti vende le sostanze ti vende già magari un mix e incominciano a uscire anche delle molecole che se le usi è quasi come se facessi un poliabuso, perché agiscono come i farmaci più sofisticati e più nuovi su diversi punti di azione. Sì, quello che ha colpito tutti noi è scoprire, ma è come dire, sarebbe da dire benvenuti nel mondo che i giovani conoscono bene, è l'incredibile dimestichezza che ragazzi di 15 anni, 14 anni hanno nei confronti delle sostanze, cioè in realtà non le conoscono profondamente, ma sembrano conoscerle alla perfezione, prendi quello, fai quello, no? Usa questo mix, questo inquieta, eh? Inquieta sì, perché il fenomeno è trasversale, ripeto, non riguarda solo i ragazzi, però i ragazzi, a differenza degli adulti, hanno più voglia di esplorare e quindi sì, scoprono più cose, e quindi questo mondo che è fatto di tante sostanze possibili e di tanti modi diversi per potersele procurare, perché vai dallo spacciatore a quello che te le porta a casa, a internet dove le ordini, all'utilizzo di cose che trovi in casa, tanto per intendersi, anche perché l'alcol una sempre delle componenti, poi eventualmente dei cocktail che si fanno, beh, i ragazzi esplorano, fanno quello che devono fare, quindi vanno a cercarsi delle cose. Non sono la maggior parte dei ragazzi, sono tanti però ragazzi che vanno a cercare, diciamo, questo tipo di esperienza, e purtroppo questo è un grossissimo danno per loro, anche quando le cose vanno nel migliore dei modi. Loro hanno un cervello che si sta formando e con questi tentativi ci picchiano, diciamo così, dentro delle botte nei funzionamenti dei loro recettori, che magari non è che necessariamente sono letali, purtroppo accade letali, oppure per forza creano in loro una malattia psichiatrica, ma senz'altro nuociono ad un percorso che dovrebbe essere visto anche da un punto di vista più ecologico della propria mente, perché creano pasticci, creano danni. Infatti a volte le famiglie si accorgono di questi problemi perché il rendimento scolastico cala, perché c'è un comportamento strano nei confronti del giorno e della notte, eccetera, ma non è che cala il rendimento scolastico, quello che cala è la loro capacità cognitiva, sì, sì, di memoria, di capire, come se invecchiassero un po', prima. Ma c'è anche l'utilizzo di psicofarmaci da parte dei ragazzi, che magari sono in casa per i genitori o per altre persone? Sì, sì, c'è anche l'utilizzo di psicofarmaci che da una parte puoi procurare perché uno magari ce l'ha proprio in casa, quindi è la cosa più semplice, oppure magari ti vende l'amico quelle che in casa lui, oppure te li procuri su internet, oppure te lo vendono anche gli spacciatori, cioè nel senso che in Europa stanno girando psicofarmaci uguali agli originali, cioè scatole che dovrebbero finire in farmacia finiscono dall'altra parte, o anche sostanze che sono derivate dagli psicofarmaci, fanno parte di quella famiglia ma sono sintetizzate in laboratori clandestini. C'è da dire che, per esempio, Riccardo Gatti sostiene questo: attenzione che arriverà l'autunno, e lo sappiamo purtroppo, di grave crisi economica. E perché dici questo sarà un fattore di spinta al consumo, all'aumento del consumo di queste droghe? Come è probabile, ci troveremo più in difficoltà e anche più poveri, ma anche con difficoltà serie rispetto per esempio alle prospettive di studio o di lavoro, con famiglie che saranno complessivamente in seria difficoltà, è chiaro che questo di per sé già ti crea cose che vanno verso l'ansia, vanno verso la depressione, vanno verso anche la rabbia, ma dall'altra parte le minori possibilità saranno minori possibilità su tutto, no? E quindi quello che ti offrirà quell'alterazione che ti permetterà, insomma, di chiuderti per un attimo al di fuori di questi problemi a diversi livelli e con diverse sostanze, probabilmente avrà successo. Sì, perché se qui si intercetta l'altro problema, cioè che non è una questione solo di disponibilità di denaro, perché ormai l'offerta è quasi per tutte le tasche, no? Sì, non solo, ma dicevo che proprio in relazione a questo fatto, la mia sensazione è che i mercati si stiano già assestando. Cioè, non so se avete notato, quando ci sono le notizie ad esempio dei sequestri, per un certo periodo, ad esempio, con una sostanza che va per abbastanza forte, cioè la cocaina, che poi non è propriamente per i ragazzini perché ha un costo, però adesso ci sono sequestri anche di crack. Il crack è un derivato della cocaina, che per come è preparato e come è usato ti dà una botta molto più forte, però unitariamente a dose costa di meno. Oppure ci sono stati dei sequestri anche enormi di metanfetamine che di produzione sintetica hanno un costo molto più basso rispetto ad esempio alla cocaina, e sempre sul costo più basso la mia paura è che arrivino anche derivati del fentanile o altri tipi di prodotti di sintesi opiacei in sostituzione dell'eroina o in integrazione dell'eroina per abbassare i costi. Il mercato sembra che si sia già attrezzato su questo. Non dimentichiamoci che non è che abbiamo di fronte, come spesso le cronache narrano, lo spacciatore e il ragazzino o lo spacciatore e il signore trasgressivo. Abbiamo di fronte un mercato internazionale molto potente, molto organizzato, che può dettare legge da un certo punto di vista, tanto è vero che l'abbiamo visto tutti durante il lockdown, si è fermato tutto, anche l'attività di spaccio all'aperto, c'era pure difficoltà quasi con gli alimentari, o almeno le persone avevano paura che ci fossero, senz'altro eravamo quasi tutti chiusi in casa, salvo noi che ci occupavamo di sanità pubblica e altri per lavori proprio di utilità e di emergenza. Però il mercato della droga ha continuato a funzionare. Tutti dicono: guarda come sono bravi questi, sono riusciti a fare una delivery, portare le droghe a casa in modo riservato e senza aumentare di molto i prezzi. I prezzi sono aumentati, ma non più di quanto è aumentata la frutta e verdura a domicilio, tanto per incendersi. Invece forse non è che sono stati bravi, è che questa cosa è sempre esistita, l'hanno potenziato un po' e hanno continuato a servire i clienti consumatori abituali, che non sono quelli che trovi poi nella movida, nel boschetto o cose del genere, ma che sono quelli che ci mettono soldi veri. Quindi abbiamo un mercato molto solido che guarda molto avanti. Forse noi siamo molto indietro rispetto a questo, semplicemente perché non ne teniamo mai conto. Ma di fronte a tutte queste sostanze di vario tipo che si possono trovare, non diventa un po' sterile il dibattito sulla legalizzazione magari della marijuana, visto che ormai c'è di tutto, ma la legalizzazione delle droghe diventa un dibattito, insomma, quasi superfluo a questo punto, o no? Ma forse sì, nel senso che se lo vediamo dal punto di vista, se legalizziamo la marijuana, allora la questione droga cambierà, probabilmente diventa un dibattito sterile, cioè quella è una delle sostanze e dove si è legalizzata, si è anche visto che sì, comunque è vero che ci sono tutta una serie di persone che finalmente per loro, visto che cercano il prodotto, possono ricorrere a un mercato legale, però il mercato illegale non è che sparisce e rimane, certo. Ma poi c'è tutto quello delle altre sostanze. Quindi il discorso allora dovrebbe essere più, tra virgolette, estremista, e quindi pensare ad una legalizzazione di tutte le sostanze, però anche qui diventerebbe una rincorsa, soprattutto col discorso che facevo prima, con l'idea di creare dei prodotti mix, che diciamo ad esempio nel Nord America già sono normalmente distribuiti, per esempio cocaina, eroina o metanfetamina addizionata a derivati del fentanile, che è un oppiaceo, è un prodotto diverso, quindi dovresti legalizzare pure il mix dei prodotti. Insomma, non lo so, io ho la sensazione che dal mio punto di vista, io faccio il medico, percorsi di legalizzazione potrebbero rendere più sicure sostanze che le persone si procurerebbero al mercato illecito, più sicure perché con una preparazione più garantita, diciamo così. Ma non sono sicuro che poi questo sarebbe una soluzione, perché ad esempio gli alcolici e i farmaci da adesso sono leciti, eppure soprattutto gli alcolici sono quelli che stanno creando più danni nella società mondiale, intendo dire più morti evitabili, più malattie evitabili. Quindi ho la sensazione, e questa credo che sia la difficoltà di qualunque politico che deve prendere delle decisioni, che tu ogni volta che prendi una decisione di questo tipo cambi i contorni del fenomeno, ma non riesci a incidere sul fenomeno in sé. Cioè, quello che voglio dire è che quelli che come me lavorano per la cura delle persone si troveranno sempre di fronte a persone con grandi problemi, magari un po' diversi a seconda del tipo di legalizzazione che fai, ma comunque dei problemi. Noi ringraziamo davvero Riccardo Gatti per queste importanti spiegazioni che ci ha dato, strumenti per l'utilizzo nei rapporti anche familiari. E rimaniamo in tema e vogliamo capire invece perché a Vicenza si sia deciso, tramite un'ordinanza del sindaco, di affrontare la questione tossicodipendenza in maniera sicuramente anche frontale, con appunto questa ordinanza che prevede le multe a chi si droga. Saluto il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, stavamo parlando, grazie a lei, stavamo parlando di questa ordinanza, 400 euro di multa. Ecco, Leonardo Manera chiede subito, ma vale solo per chi è nello spazio aperto o anche nelle case? Cioè, se io... No, è solo nello spazio aperto, naturalmente, perché per entrare nelle case ci vogliono anche delle autorizzazioni da parte evidentemente della magistratura, quindi sono azioni da quel punto di vista più strutturate. Esatto. Non è, credo, la prima ordinanza del genere. La critica che viene fatta è: ma dare una multa a una persona che si droga, che ha come primo scopo quello di cercare dei soldi per la dose quotidiana, ha davvero un'efficacia? Questi soldi il drogato, se li ha, li deve andare a recuperare per drogarsi, insomma, non per pagare delle multe. Guardi, questo è un ragionamento più complesso, nel senso che intanto noi abbiamo preso un modello, quello che è stato adottato a Treviso dal collega Mario Conte, e l'abbiamo mutuata qui a Vicenza. È un'ordinanza che anche a Treviso sta funzionando. L'obiettivo non, cioè, questo provvedimento non va visto nella sua singolarità, ma nel sistema di provvedimenti che adottiamo in funzione di contrasto al fenomeno della droga. Vicenza sta lavorando molto sul contrasto al microspaccio, anche come polizia locale, e stiamo lavorando anche molto sulla prevenzione, sul recupero dei tossicodipendenti. Poi il tossicodipendente ovviamente non va visto solo come il tossicodipendente che deve fare, non so, furti, rapine per procurarsi il denaro per la droga, ma va visto anche come il professionista, l'imprenditore, lo studente che vanno in alcune zone della città, come il centro storico piuttosto che il Campo Marzo, che danno un'area verde, dove ci sono spacciatori. È chiaro che vuole essere un deterrente. Se poi un ragazzo, uno studente, viene beccato che sta acquistando droga, come è già successo in altre situazioni con il sistema di videosorveglianza che noi attiviamo a Vicenza, e chiaramente ci sarà dietro una famiglia che viene a saperlo e può intervenire sul ragazzo per il recupero. Sì. Per evitare che naturalmente c'è quasi anche una multa, quasi anche come allarme sociale all'interno di una famiglia, una funzione sociale, esatto, cioè non vediamola come andare a colpire uno che magari dopo non pagherà la multa, perché lo scopo non è in sé la multa, ma è il deterrente nell'acquistare la droga, sapendo che in quella via, in quella strada, in quella piazza, se si è beccati c'è una sanzione in più rispetto a quello che prevede la legge, perché il consumatore... Questo è il grande dibattito, sindaco, cioè se essere sanzionatori, se invece fare delle politiche preventive. È chiaro che lei mi dirà ci vuole tutto, si può fare l'una e l'altra cosa. Ci vuole tutto, sì. Io la cosa che sto rilevando da sindaco, io personalmente ho 46 anni, guardi, prescelta per come sono cresciuto, per i valori che ho avuto, non ho mai fumato neanche una canna, quindi ho fatto una questione di impegno morale personale, e sto cercando di trasmettere alle mie figlie gli stessi valori, spero che mi ascoltino, mi seguino, però vedo tantissimi ragazzi giovani, età media 13-14 anni, che passano già all'eroina, cioè voglio dire, sì, se non interveniamo in maniera determinata è difficile poi andare a recuperarli. La preoccupazione è questa, c'è un aumento dello spaccio di droga esponenziale. Su questo non c'è dubbio. E non servono ovviamente le grandi operazioni di polizia, quindi sequestri di droga, eccetera, ma vedete che i flussi della droga sono enormi, quindi nel nostro piccolo i sindaci hanno questi piccoli strumenti per contrastare il fenomeno, non abbiamo altro, perché poi non ci sostituiamo alle forze dell'ordine, assolutamente. Sì, no, ma su poi questo non c'è dubbio che il numero delle overdose è aumentato. Esatto. Prego. Voi conoscete i luoghi, immagino, principali dello spaccio, no? Quindi sì, immagino siano già anche presidiati dalle forze dell'ordine in qualche modo. E come mai si pone ancora necessità? Cioè, quei luoghi, nonostante siano presidiati, continuano a essere luoghi normali di spaccio? Allora, la polizia locale naturalmente collabora con le forze dell'ordine. Noi abbiamo un sistema di videosorveglianza, abbiamo un nucleo speciale, si chiama NOS, che è finalizzato al contrasto del microspaccio. E facciamo ogni giorno operazioni di polizia per sequestrare, denunciamo naturalmente anche gli spacciatori, nella migliore delle ipotesi il giorno dopo la mancanza della certezza della pena porta lo spacciatore ad avere un processo direttissimo, una condanna patteggiata, poi escono, cioè è questo il problema, il sistema non funziona e quindi ci inventiamo piccoli strumenti alternativi per contrastare il fenomeno nel nostro piccolo, è evidentemente non risolutivo del problema, ma vogliamo essere insomma adottare degli accorgimenti che permettano di essere dei deterrenti. Ecco, questo è il tema, sì, vero. Sì, lei stesso dice sono piccoli accorgimenti, insomma, molto di più. Certo, non è che con un'ordinanza ci può sostituire a risolvere un problema che c'è, nei numeri, tra poco ne parleremo, è terribile. Dello spacciatore che spaccia in Campo Marzo, in quest'area verde di Vicenza. Faccio un esempio per dire un'area verde ben individuata, videosorvegliata. Venisse condannato a una pena definitiva, messo in carcere e non ci esce, quindi non ha più possibilità di delinquere, saremo tutti più tranquilli e il fenomeno diminuisce. Ma siccome tutti vedete cosa succede poi dopo le sentenze, dopo i patteggiamenti, tornano in libertà e ricominciano a delinquere. Lei dice tornano in libertà e quindi il problema rimane. Capisco, la devo interrompere, mi scusi un po' bruscamente, ma insomma incombe la pubblicità. Ringrazio il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Ci fermiamo un attimo e poi siamo ancora con voi. Questo è un drago più che un dinosauro, veramente la natura ha superato la fantasia umana. Questi ipermemori hanno un'ipermemoria autobiografica e ricordano tutto quello che hanno vissuto durante la loro vita. Si dovrebbe riassumere un attimo che cosa diavolo è l'economia circolare, perché non ce n'è un'idea molto chiara. Prendiamo dalla natura delle componenti vive per dare più funzionalità ai robot. Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza, la trasmissione che vi racconta storie di ricerca, di tecnologia e di innovazione. Ne sentirete delle belle. Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui. Vi aspettiamo dunque da lunedì al venerdì alle 20.50, ovviamente qui, su Radio 24. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. Uno, nessuno, 100 Milan. In their eyes is the place that you find. You discover that you love it here. You've got to stay on this rock, not a rock. An island on which you found a lover. Then you twitch, you feel that itch in your petticoat. Your pretty, pretty petticoat. Then you smiled, he got wild. You didn't understand that there's money to be made. Beauty is a card that must get played by organization. But ooh la, she was such a good girl to me. But ooh la, we'll just cheer her up, spot her out. Cari ascoltatori, ascoltatori, eccoci qui nuovamente con Uno Nessuno 100 Milan. Caro Leonardo, ora dobbiamo parlare di un argomento caro a un tuo amico che ogni tanto viene a trovarci e a trovarti, la gentilezza, perché è importante la gentilezza, l'educazione è la cosa principale. Sì. Cioè, penso che nella vita puoi fare tutto se lo fai con educazione. La sardina, no? E legno Mariotti, buongiorno. Cioè, per esempio, anche se te, mettiamo che sei eterosessuale, sì, vuoi fare l'amore, sì, con una donna, sì, cioè ti stai anche eccitando e devi chiedere permesso, cioè che dici scusa. Beh, permesso, scusa, sì, che mi sto eccitando. Devi verificare il consenso. Non è mica tanto educata quel tipo di eccitazione lì. È maleducato. È un po' maleducato, sì, anche un po' aggressivo, no? Vabbè, cioè, no, devi dire, devi alzare le mani e dire scusa se sto avendo questo momento di eccitazione. Devi eccitarti con educazione. Con educazione. Sì. È la cosa fondamentale. E dopo, alla fine, anche quando tutto è finito, devi dire mi dispiace, scusa. No, perché? Comunque, mi dispiace, scusa. Cioè, anche, ovviamente, cioè, anche se lei era d'accordo, devi comunque chiedere scusa che ha avuto questo momento in cui un po' ho perso la testa, no? No, vabbè, però ho perso la testa, no, ma senso te di trasporto che, positivo, emotivo. Ma perché proprio nel momento finale, quando si fa l'amore, sai che si perde un po' la testa, si fanno, sì, anche dei rumori gutturali, anche un maleducati, po' maleducati. Maleducati. Cioè, te devi fare... E poi... Invece, scusi, com'è l'educazione nell'amplesso? L'educazione... Scusi, non so perché siamo andati a finire in questo argomento. L'educazione... Allora, se te veramente vuoi essere educato, sì, l'educazione quando è l'amplesso si dice oioi. Oioi, oioi, che però non evoca una cosa, no, molto bella. Oioi, scusa, oioi, mi chiedo scusa, oioi, è il momento maleducato. Sì, quella è la gentilezza. Sì, oioi, dovresti dire così, sì, il momento, signore Legno, va bene, principale, altrimenti stia è maleducazione. Noi. Stia qui con noi, se ha piacere, perché noi dobbiamo salutare, a proposito di gentilezza, un professore di relazioni pubbliche all'Università di Padova, si chiama Gian Pietro Vecchiato, lo saluto, buongiorno professor Vecchiato. Buongiorno Milan, buongiorno, grazie, a tutti, anche al buon Manera. Anche al buon Manera. Buongiorno. Sta conducendo uno studio che, traduciamo così, fa capire quanto sia redditiva la gentilezza nei luoghi di lavoro. Ma intanto, quando lei dice redditiva, parliamo proprio di economicamente? Cioè, ce ne viene qualcosa in tasca o a noi o all'azienda? Professor Vecchiato. No, non è proprio così automatico. Diciamo che da un po' di mesi mi sto occupando di questo, cioè mi occupo da tanti anni di relazioni e quindi indirettamente anche di gentilezza. Invece da un po' di mesi, insieme ad una mia studentessa che si è laureata a Padova, appunto con una tesi sulla gentilezza, e stiamo lavorando proprio per cercare di capire quali sono i vantaggi di applicarla in tutte le organizzazioni. Ecco, lo spieghi bene a Manera. Lo spieghi, ha bisogno, apri le orecchie. Ha bisogno, Manera, ha bisogno. Sto scherzando. Sto scherzando. No, voi che ci spieghi. Due gentili. Cos'è che ha vinto la Coppa Gentilezza? Io ho vinto la Coppa Gentilezza 3 anni fa, faccio notare solo questa cosa. Ma dove? Ma cosa stai dicendo? Guarda, non sa nulla e vedi vedere. Allora, ritorniamo seri. No, professor Vecchiato, capisci che però il titolo ce lo deve spiegare un po' meglio, cioè cosa vuol dire che allora, è redditivo? Diciamo, facciamo prima due ragionamenti se c'è qualche minuto di tempo. No? Noi possiamo, sì, decidere di adottare due modalità nella nostra vita. No? Una è la prepotenza, l'aggressività, la competizione, che è uno degli elementi che spesso caratterizzano la nostra società, l'arroganza, no? L'altro invece è il garbo, la cortesia, il rispetto, l'ascolto, mi viene da dire anche l'umiltà in alcuni passaggi, che non vuol dire essere zerbini degli altri, ma vuol dire però avere un atteggiamento di positività rispetto alla vita. Ecco, diciamo che allora, se scegliamo la seconda opzione, significa che cosa? Due elementi in particolare. Uno è attraversare la vita in punta di piedi, che non vuol dire, sì, non viverla, diciamo, pienamente la vita, ma vuol dire viverla... Meno arroganza. Io non li sopporto più gli arroganti, ma quelli che si credono chissà chi, cioè, insopportabili. Sono pienamente d'accordo con lei. No, c'è un'arroganza, come posso dire, è un'aggressività sottile che passa anche nei social, anche in strumenti di comunicazione che non dovrebbero essere. Diciamo che allora, uno è passare la vita in punta di piedi. È secondo me un elemento significativo, importante per avere un nostro stile, una nostra mobilità. L'altra invece è non aggiungere dolore al dolore del mondo. Il mondo e la vita sono già dolorosi e sono già pesanti, sono già impegnativi. Insomma, non sempre, professore. Non sempre. Ci sono dei momenti difficili, ma insomma. No, ci sono dei momenti difficili. Ecco, passare allora, la vita in punta di piedi vuol dire anche, diciamo, non lasciare tracce, oppure perché passare la vita in punta di piedi potrebbe anche voler dire farsi notare il meno possibile, no? Essere sempre molto defilati. Invece è un'altra accezione questa. Sì, anche che non vuol dire appunto né essere gerbini, non valorizzare le cose belle che facciamo, però sempre con un atteggiamento di umiltà, come dice umiltà, come diceva Sacchi, Arrigo Sacchi, diceva umiltà, anche Sacchi, umiltà, è vero, no? Umiltà, ci vorrebbe più umiltà, sì. Cioè, voglio dire, fai un disco e vendi 3 milioni di copie, e va bene, ho capito, umiltà, no? Ci migliora le relazioni con gli altri, questo è l'aspetto fondamentale. Sarebbe bello, ma fa a botte questo concetto con i nostri tempi, dove l'unica cosa che conta, appunto, o quasi l'unica, è l'immagine, insomma, essere visibili e avere un'immagine di un certo tipo. È molto difficile andare incontro a questo ma l'unica modello. Cosa che conta perché, questa è l'unica cosa che conta perché? Perché l'abbiamo stabilito noi che dovesse andare così. Certo. Io dico invece essere gentili vuol dire valorizzare gli aspetti di comunicazione, ma soprattutto quindi dopo vuol dire valorizzare le relazioni con gli altri. E qui si arriva al discorso dell'impresa che faceva lei all'inizio, Milan, no? Cioè cosa vuol dire? Che se noi abbiamo un approccio gentile, passo un termine basato sulla generosità, sulla sincerità, l'empatia, che è un termine che va tanto di moda, miglioro le mie relazioni con gli altri e quindi sto meglio con gli altri e anche le organizzazioni pubbliche, private, non profit, profit, eccetera, si sta tutti meglio, è un clima più rilassato, più disteso, meno stressato, meno conflittuale. E quindi alla fine uno può raccogliere i frutti di questa gentilezza, professor Vecchiato. Io davvero la ringrazio. Devo dire che mi ha convinto. Non so se ha convinto anche il nostro Elenio Mariotti. Già dire Vecchiato non è mica tanto educato. Beh, si chiama così. Dovresti dire mica tanto più giovane, non Vecchiato. No, ma cosa c'entra? Cioè, io penso che dire Vecchiato da parte tua è quasi un insulto. No, cioè, ma potresti dire il professore di una certa età. Non abbiamo qui quel Vecchiato. Ma no, è cioè, non è mica questione. Un vino, no? Cioè, anche il vino bisognerebbe avere educazione, però dire vecchiato lo trovo una cosa sconveniente. Io si chiama così, si chiama così. Ma questo, l'ho salutato con educazione. Cioè, uno può chiamarsi in qualsiasi modo, ma te per essere più carino puoi anche dargli un vezzeggiativo. Io la vedo così, quindi, pensi in questo modo. Professor Vecchiato avrei dovuto chiamarlo mica tanto giovane. Mica tanto giovane, va bene. Vabbè, il professor Gianpietro mica tanto giovane, è così educato. Ma io lo trovo più educato, l'educazione dappertutto, anche nei microfoni per esempio. Noi parliamo nei microfoni e abbiamo messo sulla spugnetta. La spugnetta. Per educazione. No, per non parlare. È per il coronavirus, non è... Ma è per non mandare direttamente la tua saliva direttamente sul microfono. Sì. E allora per educazione gli metti sulla spugnetta, perché la spugnetta sul microfono, hai capito, è più educata. È educata e poi è protettiva, cioè è quella la motivazione reale. Beh, ma questa svelare... è una cosa in più, è una cosa successiva. Cioè è ovvio che tutte le cose della vita diventano migliori se come precondizione c'è l'educazione. E invece quale sarebbe l'atteggiamento più maleducato nei confronti del microfono? Per parlare senza spugnetta. Senza spugnetta. Perché direttamente la saliva va direttamente... Sputa in faccia. È come sputare in faccia una persona. No, è per un quello microfono che, è per quello che sta, ma anche il microfono c'è la sua dignità. Ah sì? Certo. Va bene. E allora noi dignitosamente salutiamo e rispettando il microfono. Signor Elenio Mariotti, dove andrà in vacanza lei? fa delle vacanze. Ma questa non è mica una domanda tanto educata, cioè va direttamente a incidere sulla privacy delle persone. Un po' aggressiva. È molto aggressiva. Comunque volevo dire una cosa, che il suo mentore Leonardo Manera, che ogni tanto oggi ha dimenticato la spugnetta a casa, per esempio, è stato molto maleducato in questo gesto. Vabbè, è stato poco attento, più che maleducato. Scusi. Io penso che però poi qualcuno in radio si sarà reso conto della sua defiance, del momento di difficoltà, e gli avrà fornito una spugnetta alternativa. Sì, perché noi siamo educati, però è lui che è il maleducato. Io mi permetto di dire che anche parlare direttamente alla spugnetta non è mica tanto bello, cioè bisognerebbe mettere un'altra spugnetta sulla spugnetta, finché ti fai una montagna di spugnette, perché una serie di spugnette per proteggere sempre la spugnetta precedente. Va bene, sai che mi ha quasi convinto, non ho capito dove andrà in vacanza, però... Anzi, adesso che ci penso, non vado in vacanza, vado a comprare delle spugnette. Sì, che è più educato. Va bene, noi andiamo al traffico. I campioni dello sport scendono in campo per giocare la partita più importante, quella tutela dell'ambiente che ci circonda. Sono Dario Ricci e ad agosto, ogni sabato alle 22.30, vi racconterò le storie e i progetti degli sportivi impegnati a difesa della natura. Al mio fianco Stefano Tirelli, ideatore del progetto Sport for Nature. Vi aspetto insieme a Dario Ricci a Olimpia Sport for Nature. E allora vi aspettiamo a Olimpia Sport for Nature, naturalmente anche in podcast, qui su Radio 24. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, come vedete siamo già rock, abbastanza rock per prepararci alle vacanze, però vogliamo chiudere questa prima ora di Uno Nessuno 100.000 di questa ultima puntata pre-agostana, concludendo un po' un percorso, perché il buon Leonardo Manera ha iniziato un percorso lunedì. Con alcune parole tipiche di questo nostro periodo di coronavirus, no? Perché... da gennaio alla fine si è cominciati a vedere. Io per esempio sono convinto di averla fatta a gennaio. Sì. Di averlo fatto a gennaio il virus. Ce l'hai già detto quando ti sei presentato qui, a volte anche in studio, con della febbre. Sto male, sto male, sto male. Ma lui lo sapeva già e ha fatto l'untore. Ha avuto congiuntivite, difficoltà respiratorie, un po' di febbre, ma l'ho superata anch'io. Quindi se tanto mi da tanto, qua tutta la redazione di Non Nessuno 100 Milan l'ha superata. E allora ho pensato di parlare di alcune parole tipiche di questo nostro mezzo anno di coronavirus, e oggi comincio da una parola che è scuola. La scuola online, che si è diffusa rapidamente e per necessità in questi mesi di coronavirus, è stato forse l'unico modo per portare avanti un minimo di normalità per i ragazzi che andavano a scuola. La controindicazione, che spesso succede anche a me con mio figlio, quando ci sono le lezioni online, il genitore è lì, accanto al figlio, e quando la maestra fa una domanda alla quale il figlio sembra non saper rispondere, l'impulso del genitore di suggerire al figlio è irrefrenabile. È successo anche a me. C'era la lezione online di inglese e la maestra ha chiesto a mio figlio il significato di una parola che mio figlio non sapeva, ma io sì. E in quel momento le tentazioni che subentrano sono due. La prima è quella di proteggere il figlio da un potenziale brutto voto che potrebbe dar la maestra, ma la seconda tentazione, ben più forte, di cui forse vergognarsi di più, è che il genitore vuole lui fare bella figura con la maestra. Anche se suggerisce al figlio, in realtà è lui, il genitore, che vorrebbe la gratificazione da parte della maestra. È il genitore che vorrebbe la rivincita dopo tanti anni di scuola portati avanti con difficoltà, dopo tanti anni di 6, dopo tanti anni di dal 5 al 6. Il genitore, anche lui a casa a causa del coronavirus, vorrebbe sentirsi dire dalla maestra di turno: bravo, hai risposto bene a una domanda che si fa in quinta elementare, ti metto 8 in pagella. E allora il genitore suggerisce con discrezione, ma in fondo neanche troppo, perché se da un lato vuole aiutare il figlio, dall'altro vorrebbe anche che tutti, maestra compresa, sentissero quanto il genitore è preparato, anche se il figlio è in quinta elementare, anche se sono domande da quinta elementare e non equivalgono proprio a una laurea in ingegneria. Io però

E allora, bravo Leonardo, questo viaggio nelle parole, questo tuffo in una piscina di coronavirus, l'abbiamo finito. Sei contento? Avrai portato sì, grande ottimismo? Ci grande... sarebbe un'altra parola, ma ne parleremo chissà quando. Chissà quando. Tu... L'ultima parola era vita. Oh, la parola più bella. E va bene, parlerai se firmerai il contratto quando ritorneremo. Ritornerò. E forse tu ritornerai sicuramente perché sei agosto, garantito insomma. Qui il garantito e il mollicone, potremmo fare una nuova trasmissione. Ma sai che bello avere un contratto? Io non ho mai avuto io contratti a tempo indeterminato. Come ci si sente quando ti firmi un contratto a tempo indeterminato? Garantito per sempre, come dici, per sempre a vita, per sei l'appunto. A posto, vai esatto. Subito a fare delle spese folli perché sai che da lì in avanti avrai lo stipendio per sé. Sì. Io il mio e massimo che stipendio? Che io il mio massimo di contratto garantito ce l'ho avuto per 11 puntate quando facevo Zelig, è stato il mio massimo. Tre mesi. Vabbè. Il massimo di contratto garantito. Qui comunque il contratto è vero che è scaduto ormai, ma durava un anno, no? 9 mesi. Quindi... Sì, ma guadagno meno comunque. Ah, ecco, 11 puntate di paracontratto. È un paracontratto. Non lo considera. Va bene, giornale radio. Vi hanno detto che non si sarebbe ripartiti, che sareste rimasti senza calcio e sport chissà per quanti mesi, che era tutto finito, chiuso, cancellato. E invece no. Radio 24 vive insieme a voi questa calda e lunga estate di sport. Tutte le domeniche, in diretta, tutti convocati in weekend. Il programma che vi racconta cosa sta succedendo, ascolta la vostra opinione e vi farà vivere in prima persona la volata per Scudetto, Champions League, Mondiale di Formula 1 e tutti i grandi eventi che riprendono. Un'estate senza limiti. Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo vi aspettano tutte le domeniche, rigorosamente in diretta dalle 17 alle 19 su Radio 24. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo. No. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Uno, nessuno, 100 Milan. Caro Leonardo, eccoci qui, la seconda ora di Uno, nessuno, 100 Milan. E tu hai parlato prima di vita, ci hai lasciato sospeso con questa parola. Sai che a proposito di vita c'è la classica crisi di mezza età. Tu che hai appena passato i 50 anni, io ci arriverò a dicembre a 50 anni, si spera. Quindi a dicembre sono 50 per te? A dicembre sono 50. Pensavo fossero già superati da un pezzo. Dalla faccia. Sì. Sai che tra l'altro voglio organizzare una bella festa, mi dovrai aiutare insomma, in questa organizzazione. Io l'unico compleanno che ho festeggiato veramente è stato quello dei 40. Infatti io a 40 ho fatto una mega festa e a 50 vorrò fare una festa, dai, insomma, verrai ovviamente. Sì, sei vicino a casa però, non è che voglio fare dei gran tragitti per prendere la macchina, andare chissà dove, a parte che io so già dove la organizzerai, ecco, la cena, non ci vuole una grande fantasia. La cena, voglio fare una grande festa, qui, non Alessandro si balla Milan, fino alle 4 di notte. Nonostante Milano sia una città grande, però pare che per lui esista solo un ristorante. Mitico, il quindi, Su Garden, il grande, il gigantesco Su quindi, Garden, qualsiasi il miglior ricorrenza, qualsiasi evenienza, sempre al Su Garden. Ma non faccio la festa a cena, la festa con la musica, chiamiamo Pietro la Corte, ma ci fa ballare insieme all'Alpino fino al alle 3 di notte. Ma allora, no, Ale, dove andiamo? Ma pensavo al Su Garden. Va bene, ma tu hai avuto questa crisi di mezza età a 50 anni che io ci sto per arrivare, sì o no? Io ce l'ho avuta a 40 la crisi di mezza età. Bene. Perché mi ero appena, una ragazza mi aveva appena lasciato, io avevo appena compiuto 40 anni e quindi ho detto, ecco, adesso non troverò mai più una donna in vita mia. E allora ho deciso di festeggiare, sì, in un ristorante che non era il Sue Garden. Ci siamo ritrovati e ho fatto una cosa carina che consiglio a tutti, anche a te, per i tuoi 50. Ho portato un quaderno, sì, bello, un bel quaderno con una bella carta, e ho fatto scrivere a ognuno quello che pensava di me. Ma perché vuoi compilare il quaderno degli insulti? E adesso ogni tanto me lo guardo, quel quaderno, dove aveva scritto delle cose su di me, ci sono le testimonianze di quelle persone che aveva invitato a cena, e mi rincuorano un po' nei momenti di amarezza. Falsi. Falsi, ovviamente. Ipocriti. Io lo so che sono tutti falsi quei giudizi. Però a volte la finzione serve anche a rincuorare, sì, sì, quando senti il mor nero. È bello vivere nell'ipocrisia. Certo. Va bene, ma tu sei ossessionato dalla tua forma fisica? Un po' sì, un po' ci tieni. Sei un po' ossessionato, ossessionato no, però ci tieni. Ci tengo, cerco di non cedere, di lasciarmi andare più di tanto, ecco, perché so che dopo... Hai qualcosa contro i grassi? No. Io ho attraversato varie fasi della vita, per esempio 3 anni fa ero 90 kg, adesso sì, sono 75. Ah. Ho perso 15 kg in 3 anni. Complimenti. Allora salutiamo a questo proposito il nostro ospite che insegna didattica del fitness a Foggia. Ha scritto un libro dal titolo Vigoressia, quando il fitness diventa un'ossessione. È il professor Pierluigi De Pascalis. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, vostri ascoltatori. Buongiorno. Allora, come chiaro non si può unificare in una fotografia, in un'istantanea, tutte le persone, che ci sono anche quelle che lo fanno e fanno bene forse, ma perché però c'è questa mania della corsa, mania del fitness, mania? È una crisi di mezza età? Allora, la mania c'è sempre stata in realtà, anche storicamente, senza prenderla troppo alla larga, ma chiaramente oggigiorno, complici un po' anche i social, ma non è per un pur parler, non è per chiamarli sempre in causa, ma inevitabilmente siamo più soggettati al confronto, abbiamo un confronto con un numero di persone, con una platea che è significativamente maggiore, quindi mettersi poi in discussione è più facile, è più semplice, ma di conseguenza viviamo anche una crisi amplificata. Ecco che la corsa probabilmente è l'elemento più affine, ma anche quello più semplice, quello che io posso svolgere in qualunque momento, non mi occorre nulla, sì, sì, tecnicamente. Sì, ecco, però la corsa, un conto è la corsetta per tenersi in forma, ma qui, lo sa meglio di noi, è aumentato il numero di persone che vogliono essere performanti e dire nel giro di un anno faccio la maratona, nel giro di 2 anni, per carità, nulla di male, io non giudico, però mi dica lei insomma che tipo no, di... nulla di male, diciamo che quando però si sfora, cioè quando io pretendo a 40 anni, a 50 anni, perché 40 anni un discorso è l'invecchiamento come noi lo intendiamo sotto il profilo sociale, no? Siamo tutti quanti ragazzi fino a 50, altro discorso è quello che accade a livello fisiologico, quindi l'organismo già dopo i 40 conosce, anzi ha già conosciuto l'inizio di un decadimento. Quindi pensare a 40 anni, a 50 anni di riportare indietro le lancette dell'orologio è abbastanza complesso, sì, se non inverosimile. Ce lo ridica bene, dopo i 40 già siamo, ma io ne sono consapevole, in decadimento i muscoli, le articolazioni, lo ridica professor De Pascalis. Purtroppo sì, purtroppo dopo i 40 già è così. Se invece abbiamo cominciato prima, quindi cominciare verso i 20, però non in termini agonistici, perché l'attività agonistica, al contrario di quanto si creda, non è migliorativa della condizione di salute in generale, e l'attività diventa agonistica, porta al logorio inevitabilmente, ogni eccesso non è mai positivo, l'eccesso di sedentarietà così come l'eccesso insomma di corsa, di attività fisica, non è esattamente l'ideale. Partire a 40 anni e correre va bene, partire a 40 anni o a 50 con l'idea dell'agonismo, cioè, non è che non possa essere fatto, però non è l'ottimo. Magari l'agonismo no, però c'è questa idea, la maratona, faccio la maratona, ma per carità, ripeto, è dannoso poi correre, fare la maratona, dannoso, tutti i legamenti si usurano, sì, tutti, sì, i legamenti, i tendini, no? anche mangiare e strafogarsi, stare sul divano è dannoso, se è per quello è certamente peggio, però io mi aggancio a quello che stavate dicendo prima relativamente alla dipendenza. La dipendenza è vero, cioè si innesca un meccanismo di dipendenza che proprio perché noi produciamo delle beta endorfine che hanno gli stessi effetti, ora non vorrei esagerare, ma dei cannabinoidi, quindi si innesca una sorta di dipendenza. Solo che non basta. Riguarda tutte le forme di sport o qualcuna in particolare? Riguarda tutte le attività sportive, poi chiaramente l'attività più è intensa, maggiore sarà la dipendenza che si innesca, perché è proprio un meccanismo fisiologico, non a caso molti sportivi, senza fare nome, anche molti agonisti, nel momento in cui abbandonano l'agonismo, quindi viene meno anche quella produzione di dopamina che li tiene in qualche modo sempre in alto, talvolta cambiano del tutto le loro abitudini, spingendosi anche all'utilizzo di sostanze stupefacenti o di alcolici, perché qualcosa manca. Cioè, manca proprio, c'è una produzione naturale, infatti ci sono molti cinquantenni, leggevo ieri su Panorama, che magari si devono fermare perché qualche usura alle articolazioni ce l'hanno. E dicono vanno in carenza endorfinica. Possiamo concludere che per non drogarsi bisogna evitare lo sport? Aspetti. Ecco, questo forse un po' eccessivo, non dovrei dirlo. No. Non mi è consentito. Ma lasciamolo dire solo a Leonardo Manera, insomma, lui ha questo ruolo. Però è interessante capire cosa vuol dire, ecco, vigoressia. Ce lo spiega ecco, questo termine? La vigoressia è un altro aspetto ancora. La vigoressia è l'esaltazione della muscolatura. Quindi ci spostiamo dalla corsa all'utilizzo prevalente dei pesi e quindi alla costruzione delle masse muscolari. La vigoressia è una dipendenza dalle masse muscolari enormi, quindi uno, malgrado sia già muscolarmente vigoroso, da lì il termine vigoressia, continua a vedersi in qualche modo non adeguatamente muscoloso. Si innescano una serie di reazioni per le quali uno mette la sveglia la notte per poter mangiare proteine nel corso della notte, il primo pensiero è quello di allenarsi, controllo ossessivamente la sua muscolatura, viene meno la relazione sociale perché poi occorre mangiare determinati prodotti, occorre allenarsi un certo numero di volte nel corso della giornata e poi si sfocia naturalmente nei casi più drastici anche l'utilizzo di anabolizzanti. Per semplificare è la medaglia opposta alla anoressia, che è più nota ma che poi portano esattamente alla stessa situazione, perché si muore di vigoressia come di anoressia, tecnicamente. Certo. No, ma per carità, qui non vogliamo poi demonizzare tutti coloro che ci scrivono, un'ascoltatrice scrive ma che crisi, è un modo per cominciare bene il giorno, provare per credere. Leonardo ha provato e non ha creduto. No, di mattina presto non sono mai andato presto, a correre, proprio... è già contro natura alzarsi di mattina presto. Quindi... ecco, vabbè. Sì. Ora, di mattina presto sì, non è esattamente l'ideale, anzi utilizzo i vostri microfoni per raggiungere che molti lo fanno a digiuno, non è esattamente la condizione migliore, perché molti hanno anche l'idea corra a digiuno così dimagrisco prima, non è esattamente questo, ora non voglio entrare in dettagli fisiologici, ma in realtà non è l'opera. Ma c'è un orario ideale per invece fare sport? Durante la giornata? L'orario ideale in realtà è proprio nella prima fase, perché noi abbiamo anche una risposta ormonale di tipo differente, però ecco, ciascuno di noi è diverso, c'è chi carbura meglio nella parte iniziale, c'è chi magari si sente meglio nel pomeriggio o addirittura in serata, anche l'idea che poi non riuscirò a dormire, sono tutte quante però prima bisogna magari assumere carboidrati, sì, mangiare un po' di un po' di carboidrati prima, naturalmente il tempo della digestione. Ma guarda che se uno è fissato è capace di svegliarsi alle 5 e mangiare un po' di carboidrati. Non c'è dubbio. Comunque, guardi qui, Valentina, mio marito si è fissato con le maratone, ci scrive, si allena quasi tutti i giorni, ne ha fatta una e sta già preparando la seconda, ha iniziato a 48 anni, insopportabile, però allora, condisce con delle risatine. Però io le dirò che c'è uno studio che tra l'altro è presente nel mio libro, visto lei lo ha citato, altrimenti non mi sarei permesso di essere autoreferenziale, nel quale c'è una distanza chilometrica percorsa settimanalmente oltre la quale il numero dei divorzi e delle separazioni aumenta. Questo interessa tantissimo a Leonardo Manera, lo so già. Ce lo spieghi, insomma, cos'è questo NU? Sì. Hanno verificato che superato un certo numero di chilometraggio per gli allenamenti, c'è l'incidenza del divorzio aumenta, perché poi uno si isola da tutto, diventa dipendente dalla maratona e pensa solo esatto. E quant'è questo? Cioè, qual è il chilometraggio, il limite entro il quale stare o dopo iniziare a far attivare? Già quando si avvicina intorno agli 80-100 km settimanalmente, 80-100 km l'ora, attenzione, cioè, 80-100 km a settimana, allora. 80-100 km alla settimana, attenzione! Se fate tra gli 80 e i 100 alla settimana siete nel limite, a rischio di divorzio. Le maratone creano sempre dipendenza. Guarda Mentana, ormai fa le maratone anche per le elezioni nella provincia. Doveva dire anche questa, ce l'aveva dall'inizio. Io lo guardo sempre fulminandolo, cercando di dire questa non dirla, invece l'ha detta. Ringraziamo Pierluigi De Pascalis, lo voglio ricordare io, il libro Vigoressia, quando il fitness diventa ossessione. Editore del Pensiero Scientifico. Guarda qua, sono uscita stamattina alle 5:30, ho festeggiato i miei 52 anni su strada. contenta, benissimo. Cioè, vanno anche d'inverno, tra l'altro, questi, a correre di mattina presto. Beati voi, insomma, traffico. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... 1, nessuno, 100 Milan. Don't you tell me that it wasn't meant to be. Call it quits, call it destiny. Allora, caro Leonardo, ci stiamo avvicinando, vedi già con il tono della canzone, verso l'estate. Ah, pensavo verso i night. Ah, no. Verso i night, no, le night. Serate così, un po' lascive. No, no, verso... Serate lascive, baci sulle panchine, distanziamento sociale zero. No, smetti l'Alpino in regia. No, l'ultima puntata di stagione, ci rilassiamo, si avvicina l'estate. Che belle le serate lascive, eh? Te ne ricordi tante? No, io poche, per quello che cerco di... Le cerco ancora, perché ne ho avute poche, non come te che sei il lascivo. No, il lascivo per eccellenza. Tu sei il mollicone, ricordati che ieri Elisabetta Fiorito ci ha detto ermollicone, ermollicone. Sarebbe bello che gli ascoltatori ci mandassero durante le vacanze i racconti delle loro serate lascive. Bello, magari come? Via mail? Via mail, ricorda... Ricordiamo la mail, 100 Milan... @radio24.it, le vostre serate lascive sulla spiaggia. Va bene. Sai che io conservo ancora la conchiglia, una conchiglia che presi la prima sera che andai in spiaggia, la prima volta che andrai in spiaggia con una ragazza di sera. Mentre stavo andando raccolsi una conchiglia e ce l'ho ancora, sono passati tanti anni. Ma che poesia! Ecco, noi adesso dobbiamo introdurre un uomo che invece col mare forse ha poco a che fare, perché più gli si addice la montagna. Il grande, il grandissimo nostro amico e scrittore preferito Mauro Corona. Buongiorno Corona. Buongiorno davvero a voi, lieto di sentirvi. L'ultima volta che è stato al mare quando è stato Mauro Corona? Non mi ricordo. Ah sì, circa avevo i bimbi piccoli, ora la più giovane ha 38 anni, e quindi avevano 8-7 anni la moglie, bisogna andare lì che ha bisogno di iodio, no? Sì, sì, è vero. A Caorle mi sembra, ma aveva messo delle bermude, insomma facevo schifo. E lì, insomma, ho resistito 5 giorni, avevo prenotato con le cognate, tutti quei bordelli lì, ho resistito 5 giorni, poi ho detto io torno a casa, a Caorle, e lei mi fa la macchina però non la tocchi, allora... Confesso un furto adesso. No, attenzione, dopo tanti anni, attenzione, sì. Ci ha rubato una macchina. Perdonatemi, denunciatemi, ma devo liberarmi la coscienza. È arrivato un tizio con la bici da corsa, è andato a prendersi, penso, un gelato, sono montato in bici e in 8 ore ero a Pordenone. Attenzione, Mauro Corona ha rubato una bicicletta. Ladro di bicicletta. Non me la sentivo più di arrivare a Erto, allora ho chiamato un mio amico che si scalava assieme, sì, e gli ho detto se mi porti a Erto ti do una bici, e abbiamo fatto lo scambio. Stupendo, una bici non sua, quindi però... furto e ricettazione. Però è tutto in prescrizione ormai, sì, è vero, se no non vero. Me la raccontavo. Però 8 ore da Caorle a Pordenone è un po' tanto in bicicletta. Ah, ecco. Ero un uomo, mi sentivo un uomo libero, senza quel caos. Poi tra l'altro ero lì sulla spiaggia, le vedevo tutte più belle di mia moglie, era un disastro. E quindi mi sono ritirato così. Si è ritirato. Vabbè, ma stupendo, secondo me questo è già un racconto meraviglioso. 30 anni fa, l'ultima volta sono andato al mare. Ecco. Stupendo, adesso c'è la montagna. Che agosto sarà in montagna? Quest'anno si prevedono tante persone, poche persone. Guardate ragazzi, io ho notato anche qui nella mia piccola valle dove i VIP non vengono, a parte che è arrivato Piero Pelù, ieri c'era Omar Pedrini, insomma c'è un'acustica speciale, però io non ho mai visto tanta gente, hanno lasciato il mare probabilmente per tutte quelle costrizioni, restrizioni, divieti e si sono riversati sulla montagna. Io veramente... Tanta gente, vorrei però fare un'esortazione a questa gente, che siano educati, sì. perché nel paese vecchio di Erto aprono le porte delle case abbandonate quando ci fu il Vajont e portano via oggetti. Non si fa così, perché qui, l'ho detto anche alla Bianchina, siccome sappiamo che la legge interviene molto tardi, poi, allora qui non denunciamo. No, ma è terribile, ma perché devono portarsi a casa, perché, che ne so, un suppellettile, un ricordo? Sì, sì. Attacca panni vecchi, ma... piatti vecchi, cucchiai, cioè ho capito che, però devono stare attenti perché qui non denunciano. Fanno altro, però ci sarà diciamo, anche... non denunciano, diciamo, se la sbrigano in un altro modo. Non c'è una forma di turismo dovuta anche alla sua presenza, cioè vengono per vedere dove abita, è vero, Mauro, è vero, Corona, che chi guardi, viene a cercare Corona, sì. mi dispiace doverlo dirlo io, però vengono molti anche per quello, sì. Io cerco di essere gentile con tutti, però ho dovuto mettere un bastone sulla porta di traverso perché mi entrano in casa, cioè lì è una casa privata. Io cerco di essere gentile, ma non tollero la maleducazione. No, attenzione, io lo dico a tutti coloro che pensano di andare a trovare Mauro Corona, attenzione, perché se gli prende il quarto d'ora sbagliato, Mauro Corona non è che è sempre disponibile con tutti. Guardate, diceva Platone, sii gentile con ogni persona che incontri, perché tutti stanno combattendo la loro battaglia, però di fronte a maleducazione... ci rimango male, non puoi entrare a casa mia, mi hanno portato via la tazza che bevevo vino, no. Non sono mica Brad Pitt alla fine. Effettivamente, perché c'è qualcuno magari che viene a chiedere anche un bacio a Mauro Corona. No, perché uso la distanza di sicurezza ormai. Ecco. Guardate, il virus, tra le tante tragedie, perché qui non si scherza, mi ha dato una mano che devo stare distante dai baci, quindi non mi devo impegnare. Non si deve impegnare, questa è una cosa positiva. A questo punto può tornare anche al mare, visto che ci sono donne, ma non ci si può avvicinare. In bicicletta. No, volevo chiarire una cosa, non è che il mare, che mi dispiace, mi piacerebbe andare fuori con i pescatori, andare, non è che io faccia lo schizzinoso, no, però sono nato qui e... mi piace più il verticale che l'orizzontale. Sì. Pensi che c'è uno che da 35 anni ricorda di quando era lì a Caorle, ha lasciato lì la bici, porca miseria, non l'avrebbe mai detto che a Caorle qualcuno avrebbe potuto rubare la bici. Però la corsa, l'ho anche scritto su un libricino, l'ho scritto perché dovevo liberarmi un po' la coscienza, ma insomma non si fa queste robe qua. Allora, detto che giustamente Mauro Corona dice, come tutti gli scrittori, scrivo i libri, comprate i miei libri, e quindi oltre ai libri di Mauro Corona, che libri, così dai, facciamo un piccolo consiglio, Mauro Corona, che libri d'estate uno può leggere? Non so, un paio di libri imprescindibili, un qualcosa di... Ma sicuramente un libro di Juan Rulfo, La pianura in fiamme, che è di una potenza devastante, è scritto sembra da un analfabeta. Oppure Il serpente di stelle di Jean Giono, o L'uomo che impiantava gli alberi di Jean Giono perché era piemontese. Mm-hmm. Oppure La riva delle sirpe, una roba stupefacente, di Julien Gracq, che era lo pseudonimo di Pierre Poirot, non so pronunciare. Sì, questi sono belli davvero. Belli. Allora, noi Mauro Corona ci dobbiamo salutare, ma quando ritorniamo la troviamo ancora dalla Bianchina in TV, ha firmato il contratto? Non ho firmato niente ancora, niente. No, una roba alla volta. Mi ha insegnato sempre il mio amico Celio, del quale sto finendo la biografia, mi ha detto: se guardi la cima della montagna ti avvilisci, non parti neanche, guarda quel metro che hai davanti al naso quindi... e ti troverai in cima. Ecco, e così anch'io adesso voglio passarmi qualche mese a scalare, a bere, a mangiare, quello che c'è, e poi vediamo. Bello. Grazie Mauro Corona, un abbraccio, ti voglio bene, buona vita a tutti. Grazie a Mauro Corona davvero per essere stato con noi. Oh ragazzi, furto e ricettazione, è vero, è andato tutto in prescrizione, però ha rubato una bicicletta e poi per chiedere un passaggio da Pordenone a Ertola rivenduta. Anche a me una volta hanno rubato una bicicletta, sai che è una brutta esperienza. Magari è stato Corona. No, a me una ruota della bicicletta, terribile, la ruota della bicicletta. Vabbè dai, ne parliamo dopo ce la racconti, dopo la borsa ci racconti tutto, vai. Fineco, è tempo di investire con noi. vi presenta... 1. Nessuno. 100 Milan. Allora, cari ascoltatori, beh, avete sentito Mauro Corona che si è poco fa autodenunciato per un furto di una bicicletta con ricettazione. Poi anche tu, Leonardo, ci stavi raccontando. Io ho subito il furto di una bicicletta, sì, ero andato in piscina con mio figlio qui a Milano e avevamo legato insieme con un lucchetto bicicletta e anche monopattino di mio figlio che era venuto col monopattino. E all'uscita abbiamo trovato solo il monopattino e tra l'altro quando avevo portato a aggiustare quella bicicletta il biciclettaio mi aveva detto non vada in giro con questa bicicletta. Perché? Perché dice altrimenti gliela rubino, gliela rubano, gliela rubino. Così te l'ha detto con questo congiuntivo bizzarro, altrimenti gliela rubino. Quasi un congiuntivo esortativo verso nei confronti dell'altro. Mi ha detto altrimenti gliela rubano. Io ho detto perché? Perché io quella bicicletta l'avevo comprata nell'89-90. L'avevo comprata usata nell'89-90, quindi tanti anni fa. Era vintage, era una vecchissima Bianchi. Ah, beh, io non conoscendo biciclette pensavo che fosse una bicicletta da pochi soldi perché l'avevo pagata anche poco e invece poi il biciclettaio mi ha detto attento che rubino. attento che se vai in giro, solo che se io non vado in giro con la bicicletta per cosa la tengo? Salutiamo la bicicletta. Tutti i biciclettari d'Italia che parlano correttamente l'italiano in realtà non è. E quindi mi hanno rubato la bicicletta, mi hanno rubato anche la macchina, una vecchia Peugeot 309. A me è successo una volta. Una vecchia Peugeot 309, mi hanno rubato la macchina, mi hanno rapinato in casa anche. Questo no, fortunatamente. Ho subito un furto in casa, ero uscito 2 ore di pomeriggio, sono entrato e ho ritrovato tutto buttato per aria e poi mi hanno rubato anche sulla metropolitana il portafogli. Ah, quindi lì insomma un po' anche distrazione tua. Avevo il portafogli dentro una giacca che era dentro la borsa. Che è venuto il mago Sullivan a rubarti il portafogli. Ho trovato poi la borsa aperta e non c'era più neanche la giacca praticamente. Mi hanno svaligiato. Mi hanno svaligiato, sì. Quindi ho subito furti di ogni tipo. Io però non credo di aver rubato nulla, mi sembra. Questo almeno lo dici tu. Qualcuno potrebbe dire che rubi quotidianamente i soldi qui e lo stipendio del tuo l'autocontratto. Comunque, di tutto questo, forse il furto che mi è dispiaciuto di più è proprio la bicicletta. Ecco, perché ci ero affezionato, andavo in giro con la bicicletta. Quindi se il ladro fosse ancora, è successo 2 anni fa. Dove? In che zona? E la piscina che c'è in via Pacini, che non ricordo come si chiama. Comunque, sì, abbiamo capito, zona città studi. E quindi se il ladro fosse l'ascolto, gentilmente potrebbe riportarmela, lascio in piazza Udine dove c'è il parcheggio dei taxi, io vado a recuperarla. A recuperarla. Allora, signori, però io voglio, visto che ci avviamo verso il termine di questa lunga stagione, proprio nella coda della stagione abbiamo scoperto una carriera parallela che Leonardo Manera ha tentato di imboccare tanti anni fa, quella del canterino, del cantautore. E mi dispiace davvero di avere scoperto ora che sono gli ultimi giorni che starai con noi, perché sennò avrei molto più lanciato, stressato, sottolineato questa tua vena artistica. Tra l'altro la canzone di oggi è la canzone che io e Mario Mariani, che abbiamo avuto ospite, ecco, è quella che volevamo proporre per Sanremo. Ah, quindi adesso il pubblico... c'è un giudizio del pubblico che potrebbe dire questa è da Sanremo o questa oppure è una no. Ciofeca. È una ciofeca e non è ancora arrangiata in modo perfetto, ma rende già l'idea. Si chiama L'Italiano col GL. Quindi adesso L'Italiano. Dobbiamo fare proprio la presentazione. L'Italiano di... Bonetti... Manera, Mariani. E vabbè, Bonetti e Manera, ma sono megalomane. Cioè, Bonetti e Manera sono la stessa persona. Sì, fa un po' più scena. Ok. Di Bonetti, Manera, Mariani, L'Italiano. Canta. Manera. Dirige. Mariani. No, non ci sono, no, ha detto che non ci sono ancora. Canta Leonardo Manera, dirige l'orchestra Mario Mariani. L'Italiano. L'Italia è un paese meraviglioso perché c'è il mare, c'è la montagna e poi ci siamo noi, gli italiani, col GL, gli italiani. Se sono un italiano, mi sveglio di mattina, poi bevo il cappuccino e lo scrivo su Facebook. Io sono un italiano e timbro il cartellino, ma poi vado a passeggio sotto il cielo blu. Io sono un italiano e so cosa vuol dire e tutti i santi giorni andare a faticare. Ma quando gioca calcio e l'Italia nazionale, io resto a casa mia e mi metto in malattia. All'Ariston, eh? A stare qui coi piedi dentro l'Italy, terra di mare e di amici degli amici. Mentre una mano lava l'altra, qualcuno aumenta il conto in banca, qualcuno invece dalla banca viene fottuto. Senti che satira che c'è sull'Italia. Ma certo, ma è andata la terra dei cacchi di Elio e le storie tese. E poi adesso cambia anche ritmo, ci sono tanti ritmi diversi. E mancano gli arrangiamenti. Mancano, sì, sono proprio allo stato iniziale, però... Cioè, immaginatevi accompagnata dall'orchestra di violini di Sanremo. Sono un italiano e non voto più nessuno. Quando arriva alle elezioni porto al mare la famiglia. C'è il qualunquismo, eh. Continuano a tassare, si impegnano a rubare, perciò lavoro duro ma faccio solo nero. Io sono un italiano ma anch'io tengo famiglia. Se anch'io sarei politico starei bene in Italia. Invece porco mondo, mi tocca lavorare, ma spendo in gratta e vinci quel che riesco a guadagnare. Siamo fortunati a stare qui coi piedi dentro l'Italy, terra di mare e di amici degli amici. Mentre una mano lava l'altra, qualcuno aumenta il conto in banca e qualcun altro se la ride e se la... Voi immaginatevi al Festival della Musica Italiana la canzone che distrugge l'italianità. Adesso c'è tutto l'assolo, senti, vai. Pianoforte, quindi si poteva anche fare un'inquadratura sul pianista che suonava. Adesso c'è la parte finale che è tutta swingata. Swing, come quella con gli inadatti. Ti piace lo swing? Adesso c'è la parte finale. Siamo fortunati a stare qui coi piedi dentro l'Italy, terra di mare e di amici degli amici. Sento anche dei cori, c'è Federica Vino tra queste coriste, no? Terra di mare, per partire o per restare. Signori, qui bisogna giudicare, è una canzone che doveva andare all'Ariston. Effettivamente però il tema è questo, il Festival dell'Italianità, sì, con, è una canzone dissacrante. Con gli arrangiamenti, con le coriste, capito, i coristi, sarebbe stata una canzone all'Italia, una canzone meravigliosa, avrebbe potuto arrivare terza secondo me. Ecco, terza, io dico che un bel terzo posto ci sta. Ma in che anno l'avete presentata? E mi sembra tre anni fa, se non ricordo male. Tre anni fa. Solo che quello che ce la doveva presentare non l'ha voluta presentare. Cosa vuol dire? Cioè si è rifiutato? Sì, è rifiutato. Ma dicendo una roba del genere io mi vergogno? No, la motivazione no. È stata la seguente. Ha detto: perché se si presenta una canzone a Sanremo deve esserci un progetto sottostante che poi potrebbe portare a uno sviluppo. Ma grande supercazzola per dirvi che non era all'altezza. Sì, che la canzone non era all'altezza. Non era all'altezza. Vabbè. Che amarezza. Però io la trovo invece assolutamente gradevole, piacevole. L'unico dubbio avrei detto appunto, ma portare a Sanremo una canzone che distrugge l'Italia. Satira nella migliore tradizione, sì, certo. Alto livello, altissimo livello, il Festival altissimo della livello. Musica italiana è tutta per famiglie, famiglie. Alto livello. Il politico deriso, com'è che parla se io saprei? Dai, su. Quanto ci manca per andare al traffico? Forse siamo pronti. Traffico. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. 1, nessuno, 100 Milan. Right about now, the funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother. Questo mi sembra un altro ritmo rispetto a quello di prima, però. Beh, quello di prima era più godibile, più apprezzabile. Certo, certo, questo è un po' più aggressivo. Allora, abbiamo parlato tanto di italianità, di Italia. Siamo anche alla fine di una lunga stagione in quest'ultima parte di Uno Nessuno 100 Milan. E allora, in nome dell'italianità, abbiamo voluto chiamare un personaggio che incarna in sé, rappresenta proprio il meglio o il peggio della nazione. Io lo saluto, il signor Sprecacene. Sono Tonato. Buongiorno. Sono influenzato, sono stato delegato da no. Governo. Perché influenzato avevo timore. No, ho sbagliato parola, tu non sbagli mai. Fa fenomeno che dici una parola sì, giusta e 10 no. Viene qua fa fenomeno. Oh, vabbè. Schifo come persona. Non cominciare con sto campanello, Peter Pescapè. Allora, buongiorno. Sono lei ha l'onore di chiudere questa stagione. Ho l'onore di chiudere e sono avvenuto perché sono esperto in galateo, educazione, sì, educazione sì. Spacco la testa, vengo lì, metto una bomba nella regia, quello fa fenomeno. Allora, sono stato delegato sì. a venire a portare l'educazione in tutta Italia l'educazione. Attraverso i microfoni di Radio 24. Sì. Perciò faccio corsi galateo a test. Scusi? Faccio corsi galateo a sì. test e devo ci deve dire qual è la risposta giusta tra le pro. Sì, la risposta giusta che è quella col campanello. Quando, non è ancora iniziato, vengo lì, mi fai schifo e taglio i capelli con la fettatrice. Ho questo qui con i capelli grigi, anziano in regia. L'anziano con i capelli grigi no. che sta in regia. Vabbè. Allora, cominciamo dalla prima domanda. Come ci si comporta se si è invitati a fare una gita su una barca a vela? Ah, ecco. Allora, si pretende di tenere il timone per rendersi utili. No. Tengo io il timone. No. Ci si mette di continuo il dito in bocca per sentire da che parte tira il vento, dicendo guarda che tira sta cosa, cambia direzione, velista schifoso. Risposta esatta. Si grida ogni tanto uomo in mare per rivacizzare no, la gita. No, è grave. E lì in barca a vela da noi tutto il no, tempo a fare bordi da una parte dall'altra. Allora quando non sai cosa fare, uomo in mare! No, diciamo cosa è successo. No, è un allarme gravissimo da lanciare. Allora, seconda domanda. Qual è l'atteggiamento da tenere quando si esce per la prima volta con una tonna? Allora, tonna. Sai cosa è una tonna o non lo sai? Sì, una donna. Io una tonna. Sì. Allora, ci si presenta 6 minuti per drammatizzare. Tanto sai già che può andare a finire lì. Dice, arriva già mutante. Suona sì, il campanello, sì, ding-dong, sono sì. io. So già dove può andare a finire. Al ristorante si litiga per chi deve appagare. Mm-hmm. Chi dice che deve sempre appagare l'uomo? A volte deve anche appagare la donna. Appagare. Risposta esatta. Per far bella figura ci si imbottisce le mutande di ho fatta. Così quando. Mamma mia, ragazzi. Anche se io dico dovresti arrivare 6 minuti già con le mutande imbottite, Dio fatta. Proprio il gran completo. Allora, come ci si comporta al cinema se c'è una scena di sesso? Di sesso. Si rischia. Perché? No, dai, ma che squallore. Si allungano le mani su chiunque no. è seduto accanto, no. anche se è uno che non conosci. Sei un pasticcere, un panettiere, metti anche la mano sul panettiere. Risposta esatta, per divertire i vicini si simula un orgasmo. Appena c'è una cena di sesso. Ah, così è la simulazione. Allora, come ci si comporta se si è invitati a cena da degli amici? Bene. Allora, si mangia prima per non togliere cibo agli altri commensali. Non è che devi togliere cibo agli altri commensali, maleducato. Vabbè. Per divertire gli amici ci si finge ubriachi subito. Risposta esatta. Per dimostrare che si è gradita la cena, si mangiano gli avanzi di tutti i piatti degli altri. Mamma mia, ragazzi. Proseguiamo con la prossima. Come si comporta se per strada si vede un travestito? Si fischia rumorosamente. Chi si introduce in un'automobile si suona il clacson? Risposta esatta. Chi si allontana subito dicendo che si è eterosessuali? Bisogna rimarcare che si è eterosessuali in tutti i momenti. Allora, come ci si comporta dopo aver fatto l'amore la prima volta con la fidanzata? E allora, si dice ti è dispiaciuto? Ma come ti è dispiaciuto? Perché ti è piaciuta troppo, una cosa troppo che diventa... Ma neanche ti è dispiaciuto, niente, con parole più dolci. Io dico ti è dispiaciuto, posso dirlo, ti è dispiaciuto. Tu sei che presuntuoso, che si ti è piaciuto. Ti è piaciuto! Finisce tutto, ti è piaciuto! Io no, dico ti è dispiaciuto. Non lo chiedo, no. Seconda risposta, si dorme ma senza farlo notare. Po' dura, risposta ragazzi. Esatta, si mette. Ho ancora detto risposta esatta, già sono il campanello, sto cane anziano. L'avevi detto però. Risposta caro. Esatta, si mettono dei soldi sul comodino per dimostrare di aver gradito. Ma che squallore di rapporti, ma che vita lei spreca. Allora, facciamo l'ultima prima di ascoltare la cazzone, che oggi ho anche una cazzone mia. Ho una cazzone che ho fatto mia con voi. Una canzone? Un rappo. Lei... È il rappo di spreca genero. Oh mamma mia. Ragazzi. Allora. Anche lei, ma tutti una canzone. Come ci si comporta se su un mezzo pubblico il controllore ti scopre senza biglietto? Si finge di stare male? Si spruzza negli occhi del controllore uno spray al peperoncino? Ma no, ma sei impazzito! Risposta esatta. Si finge di essere dei controllori colleghi del controllore. Dice, il biglietto sono qua anche io a controllare. Ma in divisa? No, in borghese. Certo, non ci sono gli agenti in borghese, ci saranno anche controllori in borghese. In borghese. Dammi il biglietto, quindi uno dice, dammi il tuo, sono qua anch'io a controllare, schifoso cane. No. Adesso, signore, uomini e donne, voglio far ascoltare a tutti il rap di Spreca Cenere Tonato. Davvero, non è uno scherzo. È vero, è la hit dell'estate 2020. Rap di Spreca Cenere si chiama, rap. Senti che bello, che è una cosa proprio che è la itta dell'estate, che proprio ti riscopri come in tutti gli uomini, ti riscopri questa canzone. Con la mia ragazza ieri sono andato al ristorante per far colpo su di lei, io ne ho sparate tante, ma quando è arrivato il conto poi mi sono sentito male, ho sputato al cameriere e l'ho fatto incaprettare. Siamo andati in un motello di livello, era tutto preparato, era pronto anche il pisello, ma tu proprio sul più bello non me l'hai voluto dare e mi hai detto non mi sento, devo proprio rinunciare. Maledetta Marillena, ti ho pagato anche la pizza, ti ho pagato anche la birra, tu c'è il corpo che mi attizza, ho comprato anche il Viagra, sei pastiglie l'ho già prese, se non tombo questa sera resta dritto per un mese, ma non ho concluso niente, non ho neanche limonato, sono tornato a casa solo col pisello amareggiato, ho anche speso lo stipendio guadagnato tutto il mese, se me lo dicevi prima stavo a casa senza spese. Io non siamo ho parole. Tutti fratelli nel mondo e bisogna volersi un po' bene e lottare per la pace nel mondo e spezzare tutte quante catene. Siamo tutti fratelli nel mondo, ma la donna la deve anche andare. Quando l'uomo ci offre la pizza poi ha diritto ad imbottigliare. Ora sono a casa solo come un cane abbandonato, come un cane in autogrillo che si sente rifiutato, ma la forza ce l'ho ancora per poter ricominciare, sono ancora un bel ragazzo, con le donne ci so fare, l'importante è andare avanti e non farsi rovinare da una donna o qualche stronza che ti vuol solo umiliare. Spreca Cenere Donato è rinato questa sera, Spreca Cenere Donato è più forte questa sera. Io veramente chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, cioè noi chiudiamo la stagione così, noi chiudiamo la stagione di Uno Nessuno 100.000 così, potevamo chiudere in mille modi diversi, sono veramente affranto, amareggiato, come direbbe il mio amico Manera, affronterò le vacanze così. È così, siamo arrivati anche quest'anno alla fine, a quanto pare, sì, giusto? Sì, siamo arrivati alla fine, allora fate per favore un contrattino a Leonardo Manera, dai che così torna. Io ho capito che gli ascoltatori ti vorrebbero tornato qui con noi. Adesso vedremo, parleremo con Guido Scotti, con Alessandra Scaglioni, con Sebastiano Barisoni, con Fabio Tamburini. Sì. Se mi daranno questo aumento che meriterei, e poi vedremo. Vale. Grazie comunque, cari grazie, grazie, grazie anche per essere buone stati con noi. Buone vacanze a chi va in vacanza, se no comunque Radio 24 continua. Da settimana prossima ci saranno dei meglio di uno nessuno 100.000 dalle 9.30 alle 10 all'interno di tutta la programmazione di Radio 24. Quindi non vi abbandoniamo, non vi abbandoniamo. Saluto a tutta la redazione. Saluto Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi. Li dico sempre in ordine sparso e non in ordine alfabetico. Saluto l'Alpino, Penna Dritta, Peter Bescapè, che ci ha accompagnato in regia per tutto l'anno, gran parte dell'anno. È stato un anno difficile, anche con un po' di alti e bassi, di trasmissioni da casa, ma ci siamo e ci risaremo a fine agosto. Leonardo, dai, potrebbe essere il tuo ultimo saluto qui dai microfoni di Radio 24. Chiudi tu. Ringrazio anch'io per una volta seriamente. Buona estate a tutti. Hai anche da ringraziare l'autrice, ovviamente. Che ah, certo, Marianna Stefanucci. Non che lo è quella... fa mai. No, non lo fa mai. No, no, sei certo. Pensavo che la ringraziassi tu, Marianna Stefanucci, che ha collaborato con me per tutti i personaggi che ho fatto quest'anno qui a Uno Nessuno 100 Milan. Grazie, Marianna, di cuore. Ciao a tutti. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it.